Focus Economia. Di cosa parleremo in questa giornata? Naturalmente in primo piano c'è un tema finanziario, ossia la soluzione dell'intricatissima e piuttosto complicata vicenda di Edison, e ne parleremo subito dopo i mercati intorno alle 17.45 per capire esattamente che cosa è successo. Nella sostanza Edison passerà ai francesi, una parte della produzione di Edison, ossia di Power, invece andrà alla agli italiani. Si arriva così ad ripeto, alla soluzione di una vicenda che andava avanti da parecchio tempo, che ci tiravamo dietro da parecchio tempo. Vedremo di chiarire quali sono i punti e i dubbi di tutta questa questione. Parleremo però in apertura di consumi, perché gli allarmi si rincorrono da qualche giorno. Sono arrivati nelle settimane scorse quelli delle associazioni dei commercianti, ieri quelle delle associazioni di consumatori, che avrete trovato su tutti i quotidiani oggi. Ci si avvia verso i saldi e è necessario capire anche che cosa ci si può aspettare da questo Natale e da questo post Natale, per vedere un po' come gireranno le cose in un clima che ormai viene definito apertamente di recessione. Parleremo di questo e parleremo ovviamente di borse. La giornata oggi è negativa, il FTSE MIB cede l'1,27%, il FTSE All Share lascia sul terreno l'1,09, in un quadro nel quale Milano è la borsa peggiore d'Europa. Se considerate che addirittura Francoforte è in guadagno dello 0,13%, Parigi cede lo 0,11% e Londra guadagna addirittura Londra oggi è chiusa, chiedo perdono. Per quanto riguarda l'America è piatta, il Dow Jones cede lo 0,04%, il Nasdaq è in perfetto pareggio in questo momento, lo Standard & Poor's guadagna lo 0,01%. In una giornata nella quale a trainare al ribasso, come spesso accade in questo periodo, l'Italia, la borsa italiana, sono soprattutto le banche, con Unicredit che cede il 5%, Mediobanca il 4,3%, la Popolare di Milano il 3,95%, Intesa San Paolo il 3,66%, e ancora una volta, almeno in parte, le tensioni sui titoli di Stato, anche se verso la chiusura di questa seduta le cose stanno lievemente migliorando, però i decennali sono sempre appena sotto il 7% di rendimento, mentre lo spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, sempre a 10 anni, è oltre i 500 punti base. Di questo parleremo, le notizie in breve di oggi. Iniziando dal petrolio, che ha aperto in rialzo a New York, appena sopra i $100 al barile, mentre sale l'oro oggi sui mercati asiatici a $1,606,95 l'oncia, più 60 centesimi, poco mosso l'argento. Si diceva del rendimento dei titoli di Stato a 10 anni, a metà giornata era sceso al 7,03% dopo aver raggiunto nel corso della seduta il 7,12%, ha ritracciato ancora di più adesso verso la fine della seduta a 6,97%. Lo spread, ve l'abbiamo detto, è a 505 punti base in questo momento. Da segnalare che il differenziale tra Spagna e Germania viaggia sopra i 340 punti e quello della Francia a 105,7 punti. Da segnalare anche un'altra cosa, che nel giro di un paio di giorni verranno piazzati, ci saranno aste per una ventina di miliardi per titoli di Stato a 6 mesi con scadenza 2013 e con scadenza 2013 fino a un totale di 11 miliardi e mezzo per domani e dopodomani, BTP con scadenza 2014 e 2022 fino ad 8 miliardi e mezzo, quindi non vi preoccupate che di questo ne torneremo a parlare. Intanto un record per i depositi overnight delle banche dell'Eurozona presso la Banca Centrale Europea, tutto questo dopo la maxi asta della scorsa settimana della quale vi abbiamo parlato in lungo e in largo. Maxi asta con la quale l'Istituto di Francoforte ha iniettato liquidità nel sistema per quasi 500 miliardi. Le banche hanno parcheggiato 411,8 miliardi presso la BCE dai 346,9 precedenti, la cifra più alta dall'introduzione dell'euro. Il picco si era toccato a giugno 2010 nel pieno della crisi greca. Qua parla il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble. Siamo sul filo della banalità, ve lo diciamo subito, dice: i paesi di Eurozona devono impegnarsi per evitare un contagio della crisi del debito sovrano. Abbiamo una crisi del debito dei singoli paesi dell'Eurozona e c'è un rischio contagio. Intanto dalla Germania arriva la notizia che il debito pubblico è salito a 2027 miliardi a fine settembre, lo 0,5% in più rispetto a fine giugno. Il debito è quindi pari a oltre l'80% del PIL. E per restare in tema di crisi, vi parleremo tra poco dei consumi italiani, però ci sono i dati sui consumi che arrivano dalla Grecia. Le vendite al dettaglio nel periodo di Natale sono scese del 30% rispetto allo stesso periodo del 2010. Questo è quello che indica la Federazione del Commercio Greco. Le prime stime mostrano una flessione del 40% per abbigliamento e calzature, del 30% nel comparto elettrodomestici, del 20% per i negozi di cosmetica, libri o regali e del 15% per alimentazione e bibite. Tengono solo i giochi per bambini. Una notizia che arriva dai dati di Fondazione Impresa, che ci sembra abbastanza interessante e che riguarda l'occupazione italiana. Nel corso dell'ultimo anno in Italia hanno trovato lavoro 485.000 giovani, la maggior parte di loro è stato assunto da una piccola impresa, il 62,6%. Le sole microimprese, cioè quelle con meno di 9 addetti, hanno rappresentato il 49,4% delle nuove assunzioni di giovani. I dati sono appunto della Fondazione Impresa, che ha rilevato come i nuovi assunti si concentrano soprattutto nel mezzogiorno, seguito dal nord e più distante dal centro. Dal lato dei mercati è un po' quello che vi dicevamo, da segnalare solamente tre titoli positivi, poi approfondiremo in pregilo. Un guadagno del 2,8% dopo l'ok del Consiglio d'amministrazione di Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni all'offerta di Gavio per il 33% di Igli, la società che controlla circa il 30% di Impregilo, offerta a 3,6 euro per azione. E poi c'è l'accordo di Edison su Edison, che approfondiremo più tardi. Buone notizie per quanto riguarda l'export delle bottiglie di spumante italiane, un più 25% appunto per le bottiglie spedite all'estero. È un'analisi della Coldiretti in occasione delle festività di Capodanno. Quest'anno nel mondo, dice l'associazione, si beve, anche se di misura, più spumante italiano che champagne, le cui spedizioni sono aumentate solo del 3,5% nei primi 10 mesi dell'anno. E ora qualche notizia curiosa che ci arriva da questa crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Chi ce l'ha li metta fuori circolare, miei signori? E chissà che la crisi finirà. La prima che vi diamo ce la fornisce l'Espresso. Siamo, come sapete, in tempi di tagli, difficoltà, austerità. Si prepara, tra l'altro, la spending review, come ci informa oggi il Sole 24 Ore, e quindi una verifica delle spese. Ebbene, abbiamo finanziati dallo Stato raduni di spazzacamini, tornei di tennis, spedizioni subacquee, partecipazioni a gare di aeromodellismo, eventi musicali e naturalmente feste. Allora, in provincia di Trento, sempre fonte l'Espresso, festeggiano sovvenzionando fiction televisive e così 196.000 euro finiscono nel bilancio di Sposami. Nel Lazio 2 milioni a favore di amministrazioni locali e Proloco per eventi come l'Infiorata, la festa dell'uva di Genzano. In provincia di Terni si organizza a Montecampano la Sagra della Fregnaccia, kermesse con i migliori piatti della tradizione contadina. Per chi non lo sapesse, ve lo dice uno di origine umbra, la Fregnaccia è una specie di frittella, perché i romani potrebbero fraintendere qua. A pagare non sono solo gli abitanti del paese, ma la regione Umbria, con un finanziamento pubblico di 3.000 euro. Allora, Lombardia, l'associazione culturale Luogo Ideale per la finale regionale del festival musicale La Bella e la Voce, sovvenzione di 3.000 euro. Musica per le casse statali anche in Campania, dove l'associazione Danza in Lirica ha avuto 8.000 euro dalla provincia di Napoli. Tutte cose che naturalmente in qualche modo nella spending review dovranno entrare, per quanto piccole piccole. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Chi ce l'ha li metta fuori circolare, miei signori? E chissà che la crisi finirà. E qua vi segnaliamo anche quel che succede in Piemonte, e questa è notizia fresca di oggi. I consiglieri regionali hanno abolito il vitalizio. La proposta di legge è stata approvata all'unanimità dai consiglieri presenti, anche se in commissione non sono mancate le discussioni. In luogo del vitalizio potrebbe essere introdotta con un provvedimento a parte una forma di pensione a sistema contributivo. La Commissione ha anche deliberato che le indennità dei consiglieri vengano sganciate da quelle dei parlamentari e fissate, secondo quanto ha appreso l'ANSA, quanto riferisce l'ANSA, a 8.631 euro lordi. Adeguamento Istat sarà congelato fino al 2013. Non bastassero gli 8.631, naturalmente tutto avverrà a partire dal 2015, quindi dalla prossima legislatura. (349) 238 6666 per i vostri sms, come sempre. Sono le 17:20 minuti e 5 secondi. Veniamo al primo argomento del giorno, ossia i consumi. Sono stati diffusi molti dati nei giorni scorsi, naturalmente. A volte accade, lo diciamo, insomma, magari senza malizia, che vengano diffusi anche un po' per far notizia. Comunque ve li forniamo per quello che sono. Ci sono quelli diffusi dall'Associazione dei Consumatori giusto ieri. Ogni italiano, secondo il Codacons, ha tagliato di 48 euro la spesa per addobbi, regali e quant'altro. Complessivamente cenone e regali sono ai minimi da 10 anni. 9 italiani su 10 hanno scelto di trascorrere a casa il Natale con parenti e amici. Si parla di riduzioni delle vendite che andranno dal 30 al 40% sui saldi. Quindi veramente uno scenario greco, stando ai dati che vi abbiamo fornito proprio poco fa, che arrivano appunto dalla Grecia. Altri dati sono quelli che sono stati diffusi da Confcommercio, che parla di una spesa media di 403 euro per i saldi. E poi abbiamo quelli, abbiamo una stima in realtà di qualche giorno fa, che riguarda, che è arrivata da Confesercenti e che più che una stima in questo caso è un sondaggio, quindi fatto con SVG, quindi da prendere un po' meno con le pinze rispetto a dati come quelli delle associazioni di consumatori. Lo diciamo molto francamente: la paura della crisi e i timori per il futuro spingono ad una prudenza ancora maggiore di quella degli ultimi anni. La tredicesima sarà utilizzata per il 36% per spese di casa e famiglia, un quarto al risparmio, il 20% servirà a saldare i conti in sospeso, il 7% a pagare il mutuo. E comunque 2 italiani su 3 spenderanno meno per Natale, diceva qualche giorno fa il sondaggio Confesercenti ed SVG. Ed è proprio con il presidente di Confesercenti, Marco Venturi, che siamo in collegamento. Buonasera, presidente. Buonasera. Che sarà tra l'altro dal 1 gennaio al timone di Rete Imprese Italia, un'associazione di associazioni, se così possiamo definirla, che raccoglie oltre 4 milioni di piccole e medie imprese attive nei settori del commercio, dell'artigianato, del manifatturiero e dei servizi, e 14 milioni e mezzo di lavoratori, di cui 9 milioni di dipendenti. Allora, con lei, presidente, iniziamo dal suo ruolo, dal suo primo ruolo, che è quello di presidente di Confesercenti. Ci aiuti a capire un po' meglio come vanno questi consumi. Ma intanto male, i consumi stanno andando male, lo abbiamo detto, lei l'ha sottolineato, d'altronde non poteva che essere così, considerando la lunga fase di crisi dell'economia, con perdita di fiducia e con i provvedimenti che sono stati varati anche dal governo. Non è in discussione il fatto che la manovra andava fatta, ma secondo noi bisognava tenere conto di questa situazione molto difficile e magari evitare interventi come quelli fatti sull'IVA, che inevitabilmente deprimono ulteriormente i consumi, e quindi rischiamo di avvitarci, insomma, in una crisi senza fine, mentre secondo sì, è vero, noi è vero anche, presidente, che l'IVA non è immediata, no, il provvedimento sull'IVA. Cioè lei si riferisce a quello si riferisce a quello precedente. È stato fatto già un punto dal governo Berlusconi e 2 punti scatteranno a ottobre, quindi insomma, è vero che non sono immediati, però insomma, sono prossimi. E quindi comunque ci troveremo di fronte a, diciamo, una situazione tra quello che è successo e le aspettative, insomma, abbastanza difficili. Insomma, non ci scordiamo che in questi anni noi abbiamo avuto una caduta dei redditi dei dipendenti di 1,6 punti, degli autonomi addirittura del 12,2%. Quindi la situazione è già difficile, poi c'è l'aumento dei contributi previdenziali che vengono fatte per esempio per gli autonomi, insomma anche questo peserà, e quindi tutta una serie di fattori per cui si è deciso di intervenire nella fase 1 si è deciso di intervenire subito sulle entrate e nella fase 2 poi si interverrà, questo è tutto da verificare, sulla spesa, cosa che invece noi chiediamo da anni, dobbiamo agire in maniera determinata sulla spesa pubblica per allentare la morsa del fisco, perché altrimenti vuol dire che non solo non si consuma, ma non si investe nemmeno, e quindi questo rischia di diventare sempre più pesante. Allora, ieri le associazioni di consumatori hanno indicato un calo di spesa intorno al 18% e che salirà addirittura durante i saldi, un calo delle vendite tra il 30 e il 40. Le sembrano dati plausibili, presidente? Ma io spero proprio di no, insomma, ecco, non mi pare che sia questa la misura, insomma, nel senso dai segnali che arrivano, insomma, speriamo che non siano di questo livello, insomma. Quindi questo sicuramente è un nodo importante, perché se c'è un crollo è molto più difficile riprendere riprendere insomma con lo sviluppo. L'unica cosa ci chiarisca, voi che segnali state ricevendo in queste ore che sono state ore di inevitabilmente di acquisto? Le cose non va, ovviamente c'è non solo una difficoltà reale immediata da parte delle famiglie, ma pesano anche le aspettative e quindi c'è un atteggiamento anche psicologico, un approccio diciamo molto prudente anche su questo piano, quindi noi ci stiamo trovando insomma di fronte a un atteggiamento di prudenza, che vuol dire meno acquisti, che vuol dire meno sviluppo, che vuol dire meno occupazione, quindi rischiamo di avvitarci su noi stessi, insomma. D'altronde i dati ce lo dicono con chiarezza, per quello che riguarda i dipendenti i redditi sono scesi di 1,6 punti, per gli autonomi addirittura siamo a 12,2, quindi meno disponibilità reale, concreta diciamo di spesa. Purtroppo c'è chi non continua invece a spendere tanto e sono gli enti pubblici, sono le istituzioni, sono le regioni per esempio che crescono. Negli ultimi 10 anni abbiamo registrato una crescita del 7,5% annuo di aumento della spesa, insomma della spesa pubblica, e quindi il problema è ritarare tutto questo, ridurre la spesa pubblica, cioè soprattutto quella improduttiva, e cercare di mettere più risorse nelle tasche degli italiani. La manovra per adesso si è limitata diciamo a mettere di più le mani nelle tasche degli italiani. Al di là e andando oltre la manovra, facendo una domanda anche appunto, come dicevo, sul suo futuro ruolo di presidente di Rete Imprese Italia, si teme che uno dei primi problemi che dovrà affrontare è quello di una stretta del credito. Segnali ne sono arrivati da molte imprese del fatto che le banche abbiano stretto i cordoni della borsa. C'è stata la mossa della Banca Centrale Europea sulla quale molti osservatori hanno dei dubbi che poi possa portare ossigeno all'economia reale. Vorrei capire da lei che segnali state ricevendo anche da questo lato e che cosa vi aspettate per i prossimi mesi. I segnali sono netti, c'è una difficoltà obiettiva da parte delle imprese che quando stanno in crisi hanno bisogno di più credito, purtroppo non tanto per innovarsi quanto per andare avanti. La stretta c'è tutta, nonostante noi agiamo con i nostri confidi, quindi diamo pure controgaranzie, ma nonostante questo diciamo la stretta c'è perché le imprese sono in forte difficoltà e quindi è un avvitamento insomma di vari fattori che si sommano ovviamente in queste situazioni di forte difficoltà, insomma, quindi c'è bisogno di una svolta, ma la svolta si può ottenere solo se si riesce a tagliare fortemente la spesa pubblica, soprattutto quelle enormità di sprechi che agiscono, se si semplifica la vita, perché c'è un modo per mettere in qualche modo più risorse anche nelle tasche degli imprenditori che possono quindi investire. Pensiamo al fisco che noi abbiamo definito lunare, 62.500 norme tributarie che costano 18 miliardi e 300 milioni all'anno solo per gli adempimenti, quindi non dei soldi che entrano nelle casse dello Stato. E quindi gli italiani spendono ogni anno solo per adempimenti quasi 5.000 euro contro i 1.300 e dispari dei francesi e altrettanto degli inglesi e dei tedeschi, insomma, quindi c'è tutta una situazione più complessiva da ritarare, noi dobbiamo ritarare l'Italia, sulla spesa in particolare. Ultima domanda, Presidente, lei parla di necessità di semplificazione, questo è ampiamente condivisibile, è ampiamente condivisibile anche l'idea di ridurre la pressione fiscale, ma da questo lato vi viene spesso obiettato, l'obiezione più naturale è la pressione fiscale non si riduce perché ci sono categorie che le tasse non le pagano e tra queste venite inclusi abbastanza spesso. Ma guardi, su questo io non so, non, ovviamente non la condivido questa affermazione, perché ormai sono anni che abbiamo fatto una sorta di patto con lo Stato e abbiamo varato, cioè lo Stato ha varato gli studi di settore e noi abbiamo fatto una grande opera di sensibilizzazione, ormai siamo a rispetto in larga massima degli studi di settore e questo è un fattore di cui si tiene conto, anche nei provvedimenti del governo Monti si tiene conto di questo fattore del rispetto degli studi di settore. Allora bisogna smetterla con questa idea che ormai si è inserita nella testa della gente, perché l'autonomo, la piccola impresa sono quelle che vadono. C'è un rispetto sostanziale e noi a questo ci teniamo, perché abbiamo fatto uno sforzo intorno a questo obiettivo e quindi Non è che tutti battano lo scontrino, non è che tutti battano lo scontrino sempre, Presidente, a dirci la verità. Ma guardi, no? Lo scontrino può essere una cosa, io dico il consumatore lo deve chiedere, però al di là di questo lo studio di settore alla fine dà una risposta e lo studio non è un elemento statico, è un fattore che viene aggiornato annualmente e quindi la risposta a questa richiesta dello Stato dalla gran parte delle imprese c'è. Quindi poi possiamo sottilizzare e fanno bene i consumatori se chiedono lo scontrino, perché è giusto che gli imprenditori rilascino lo scontrino. Però, ripeto, c'è questo fattore di rispetto sostanziale degli studi di settore che le associazioni hanno svolto un ruolo importante per riuscire a ottenere questo obiettivo e chiediamo che questo ci venga riconosciuto. Grazie, grazie a Marco Venturi, presidente di Confesercenti, per essere stato con noi, che le devo dire la verità non ha convinto molto a vedere dagli sms i nostri ascoltatori, soprattutto su quest'ultima parte, però insomma abbiamo dato la sua posizione. Grazie a Marco Venturi, presidente di Confesercenti, per essere stato con noi e buonasera. Arrivederci, buonasera. Sì, non vi ha convinti chi scrive i dati medi delle dichiarazioni parlano chiaro, chi dice i commercianti sono dei santarelli. E poi chi torna sul tema della detraibilità delle spese fatte, insomma della possibilità di portare dichiarazione dei redditi praticamente tutto. Questo potrebbe portare a una riduzione dell'evasione fiscale, anche se su questo ci sono degli studi contrastanti. È stata una notte di trattative per una vicenda oggettivamente piuttosto intricata e complicata, anche piuttosto difficile da raccontare, perché è una vicenda fatta di incroci azionari con ruoli non indifferenti per certi aspetti della politica. Perché si parla di un settore strategico, naturalmente, si parla dell'energia. Allora, in base all'intesa raggiunta tra EDF e i soci italiani di Edison, EDF acquisirà il 50% di Transalpina d'Energia. Transalpina d'Energia che era l'azionista di Edison per parte italiana, controllata da Delmi, che è la holding dei soci italiani. Il prezzo è basato su una stima del valore delle azioni Edison a 0,84 euro. Delmi incamererà Edipower. Ci aiuta a districarci in tutto questo Ceo Condina di Radio Cori e Il Sole 24 Ore. Ceo, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, dacci una mano, aiutaci nella maniera più radiofonica possibile, perché non abbiamo grafici per supportare le spiegazioni. Ci proviamo. Allora, di fatto dal 2001 che Edison era francese, perché Di fatto Edefine controllava direttamente o indirettamente il 50%, allora il 20% lo controllava direttamente, il 30% lo controllava indirettamente attraverso la, diciamo, la società che tu hai citato prima, che è Transalpina di Energia. Quindi diciamo che la società è andata avanti, specie negli ultimi 5 anni, stiamo parlando di Edison, in un connubio di poteri, in una gestione mista italiana e francese, che poi è andata anche a discapito dell'efficienza e dei conti della società. L'operazione che è stata fatta oggi taglia il nodo, taglia l'intricata matassa su cui era imperniato l'azionariato di Edison. Infatti gli italiani cedono il loro 30% di Edison, lo danno ai francesi, così salgono all'80% e mettono quindi in trasparenza il loro controllo sulla società. Quindi d'ora in poi non ci saranno più dispute sul governo, sui aumenti di capitale, i francesi decideranno quello che è meglio fare. Che cosa otterranno in cambio gli italiani otterranno in cambio di queste quote in pratica il 50% di Edipower detenuto da Edison. Edipower altro non è che sono 9 centrali dislocate in tutto il territorio italiano, che andranno in pratica a tutta la cordata italiana, che potrà poi attraverso la futura forse integrazione con A2A farla diventare secondo polo energetico dietro Enel. Quindi fondamentalmente cosa succede? EDF si prende Edison e i soci italiani si prendono 9 centrali che di fatto erano controllate dalla stessa Edison. Allora, il prezzo pagato è uno 0,84 per azione, no? Sì, era il prezzo che in passato EDF aveva ipotizzato per un'OPA su Edison. Non è un prezzo eccezionale, però fondamentalmente la società Edison andrà a chiudere il 2011 in perdita, avrà un MOL che è tra quest'anno, un margine operativo lordo che è tra i più bassi degli ultimi anni, necessiterà probabilmente, non si sa ancora, di un aumento di capitale, e quindi di questo i piccoli azionisti purtroppo si devono accontentare. C'è una questione debiti? Sì, sicuramente sì, c'è una questione debiti, Edipower si porta a 1,1 miliardi di debiti, e questi debiti andranno poi a carico sicuramente della cordata italiana e sicuramente di A2A, che come sappiamo è l'azionista di riferimento e che dunque a valle di questa operazione vedrà appesantirsi il proprio carico debitorio. Certo, sull'altro piatto della bilancia la Multiutility Lombarda di fatto diventa il secondo leader italiano dell'energia. Dal canto suo invece Edison si vede alleggerita di circa 1 miliardo di debiti. Quindi i francesi si prendono Edison senza debiti, questa è la sostanza, e però in cambio danno un'infrastruttura, insomma delle centrali praticamente alla cordata italiana, questa è la sostanza. Sì, diciamo che forse senza debiti è una parola grossa. Edison oggi ha circa 4 miliardi di debiti. L'operazione di Power consente di deconsolidare 550 milioni di debiti, dunque si scende a 3,5, in più darà un'iniezione di liquidità ulteriore di 600 milioni, quindi comunque resta un carico di debiti importanti per una società che, ricordiamolo, comunque ad aprile potrebbe andare incontro a ulteriore svalutazione degli avviamenti. Quindi diciamo che i francesi prendono in mano una società su cui sarà decisamente necessario lavorare. Ricordiamo che gli italiani ad esempio avevano in carico la società a bilancio a 1,50 euro, l'avevano comprata che valeva 1,50 euro in borsa, e oggi la società vale 0,7 euro. Gli italiani, se vogliamo vedere in controluce, al di là poi di quello che è stata questa acquisizione di questa Edipower tutta italiana del secondo polo energetico nazionale, si prendono sì Edipower che ha 9 impianti, ma 3 di questi sono idroelettrici, sicuramente sono 3 degli impianti più pregiati che ci sono in Italia, ma gli altri 6 impianti sono impianti sicuramente soggetti a diverse criticità. 2 sono completamente da ricostruire, quindi necessitano di investimenti pari a 1 miliardo a testa, e gli altri 4 sono impianti a gas che con la crisi economica lavorano sostanzialmente in perdita. Quindi diciamo che comprarsi tutto di Power italiana fa sicuramente un grande effetto, però ci sarà anche una grande sfida, sarà quella del rilancio per questa società. Brevemente, dal punto di vista industriale, a questo punto i francesi che cosa incamerano, tolte quelle 9 centrali? Incamerano tutta Edison, che sono diverse centrali a ciclo combinato a gas, sono un grosso parco produttivo dal punto di vista idroelettrico, sono impianti eolici. Edison, ricordiamolo, è di fatto il secondo produttore insomma, energetico ed elettrico italiano. Ma qui credo che dobbiamo rifarci anche le parole dell'assessore al bilancio Bruno Tabacci, assessore milanese, che è un uomo della Prima Repubblica, che comunque ha sempre preso a dire le cose molto chiaramente. Cioè Tabacci dice dal 2001 che di fatto EDF ha il controllo di Edison, il fatto che Edison è francese, quindi oggi è inutile piangere per un Edison che diventa francese, l'importante era avere una contropartita, diciamo, valida. In questo caso si può dire che la contropartita, con i caveat che ho enunciato precedentemente, diciamo è discreta. Grazie, grazie a Ceo Condina di Radio Cori Il Sole 24 Ore, grazie per averci aiutato a capire la vicenda. Poi c'è tutta una questione che riguarda il futuro, la possibile creazione di una grande multi-utility italiana, però insomma sono appunto ragionamenti da futuro. Grazie a Valeria Bernardi in regia, Barbara Bianchi in redazione.